È lunedì 16 settembre, intanto i titoli, il sole 24 ore, tasse, una corsa senza fine, questo è il titolo di apertura, così sulle tasse anche il Messaggero, ma in questo caso la notizia che appare più positiva, meno tasse sulle tredicesime, questo è il titolo. Per il Corriere della Sera invece l'apertura, sorpresa la Banca Centrale USA, si ritira Summers, il candidato più vicino a Obama, questa è l'apertura del Corriere. La politica italiana invece per Repubblica, Renzi, se si vota asfaltiamo il PD. Per il Giornale Berlusconi dice tutto, la verità in un video, ci sarebbe un video, questo per la verità è un mistero da giorni. Per La Stampa invece Renzi, Berlusconi non vuole il voto, li asfalteremo. L'Unità titola l'imbroglio del PDL. Andiamo velocemente, questi alcuni dei titoli, voglio subito leggere qualcosa dai giornali, siccome lunedì vi voglio bene, vogliamo iniziare la giornata in una maniera un pochino soft, la settimana anche in una maniera un pochino soft, e allora per il vostro bene vi parlo di tasse, tasse che aumentano, tasse dovunque, il sole 24 ore. Come abbiamo letto in prima pagina, lo so che già mi odiate, così, ma d'altronde così mi vendico un pochino, no? La sveglia alle 5 questa mattina ha suonato male, io vi parlo di tasse e quindi il Sole 24 Ore ha fatto una ricerca negli ultimi 10 anni per capire come sono aumentate e tanto le tasse in Italia, non si ferma la corsa delle imposte, tutti i dettagli li trovate a pagina 2 e 3 con i grafici. Volete sapere di quanto è aumentata l'IRES negli ultimi 10 anni, dal 2003 al 2012 del 58%, l'addizionale regionale IRPEF del 45%, l'addizionale comunale IRPEF record più 71%, i tabacchi più 15% e così via. Ci sono anche delle tasse che sono diminuite, come l'imposta di registro, meno 12%, ma davvero sono dei casi minimi. Cristiano Dell'Oste, Giovanni Parente racconta alla pagina 2 questa corsa lunga 10 anni tra crisi economica, debito pubblico, il gettito delle entrate, delle tasse continua a crescere, a volte con aumenti che sfiorano il 100%. Per dire, se nel 2003 i comuni incassavano 1,8 miliardi dall'addizionale IRPEF, nel 2012 si è arrivate a 3,2 miliardi. Certo, ci sono anche alcuni casi in cui il gettito comunale diminuisce, ma il calo dipende per lo più dalla contrazione dei consumi delle famiglie o dal crollo del giro d'affari delle imprese. In tutto è rincari, rincari, rincari. Trovate tutto sul Sole 24 Ore. Tra l'altro tasse e lavoro è un tema che oggi è sviluppato dai giornali abbastanza approfonditamente. È interessante, per esempio, i giornali, quello che fa il Quotidiano Nazionale è andato a intervistare sul tema del lavoro quell'imprenditore che, non so se vi ricordate, quest'estate aveva fatto un po' scalpore con un'intervista, l'imprenditore del Trevigiano, a dire gli italiani non hanno fame, per cui sono obbligato a scegliere e a assumere extracomunitari o comunque stranieri. Sono persone sempre più disponibili rispetto agli italiani. Ebbene, il Quotidiano Nazionale un mese dopo è andato a intervistarlo. Ho assunto italiani, si sono messi in gioco. L'imprenditore Giovanni Pagotto dell'Arredoplast di Ormelle nel Trevigiano, che fece discutere un mese fa con quell'intervista, gli extracomunitari hanno più fame degli italiani, ora dice: ho assunto 6 italiani giusto la scorsa settimana, diciamo che si è mosso qualcosa, forse la crisi davvero morde di più, e difende la sua scelta. Guardi che io ho sempre assunto stranieri, ma se, siccome sono italiano, se potessi assumerei italiani, perché così i soldi restano nel mio paese, ma se non li trovo mi adeguo. Gli italiani non hanno fame? Ognuno fa quello che vuole, non voglio giudicare nessuno, ma io a 16 anni andavo in bicicletta da Ormelle a Conegliano per lavorare alla Zanussi e a 27 ero responsabile di 1000 operai, ma mi facevo un di dietro così. Si dirà altri tempi, ho capito, ma io la fabbrica la devo far lavorare a ciclo continuo se voglio fronteggiare la concorrenza, e non mi si dica che sfruttiamo gli stranieri perché paghiamo col contratto nazionale straordinari tutto di tutto. Il risultato è che l'85, forse anche 90%, 90% dei miei dipendenti sono stranieri. E però qualcosa si è mosso, lui stesso dice: forse la crisi morde di più, ho assunto adesso 6 italiani e prima ne ho assunti altri 2, dunque 8 negli ultimi tempi, uno è venuto da Brescia e uno da Como. Quindi qualcosa si muove sul fronte del lavoro, ma certo, dice ancora, gli italiani non hanno fame. Beh, controcorrente, ma certamente interessante. Prima della pubblicità vi voglio dare questo flash su 4 articoli che trovate sui giornali. Avrei messi nel premio la carta costa, articoli più inutili scovati oggi, ma come dire, sono 4, poi dopo dovevo dare 4 premi e ci svenavamo qui a 24 mattina. Però che dire degli articoli che trovate sul Quotidiano Nazionale, Il Secolo XIX, Il Giornale, Repubblica, ecco Repubblica, mezza pagina sul filetto e gli chef per i cagnolini reali. Ecco, in questo momento di crisi pensate che la regina Elisabetta ai suoi 2 corgis dà da mangiare filetto e pollo cucinati da uno chef apposito, serviti da un cameriere alle 5 in punto, e si premura la regina di mettere personalmente la salsa sul filetto reale da dare ai suoi cagnolini. Si premura la regina anche di far sapere che è assolutamente vietato in tutti i modi fare qualsivoglia battuta o qualsivoglia riferimento ridicolo ai suoi amati e adorati cani. L'imbarazzante passione di Elisabetta, titola Repubblica. Oppure ecco qui, il sugo sul filetto lo versa la regina, la vita dorata dei cani di Elisabetta. O sul Secolo, la regina protegge i suoi corgi con calamite antispilli. Eh sì, se i suoi corgi vogliono entrare in una stanza, la regina Elisabetta prima passa con una calamita per verificare che non ci siano spilli, perché i cani reali potrebbero puntarsi un attimo una spilla nella zampa. Questo poco prima di mangiare alle 5 in punto filetto reale, preparato da chef con salsa versata dalla regina Elisabetta in persona. Andiamo alla pubblicità meteo e poi rientriamo con la politica italiana. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qua, parliamo dopo i cani della regina Elisabetta, torniamo. Ringrazio a chi mi ha scritto, ma che sei scemo a parlare con quell'inglese lì, vabbè, ma è così, i corgis della regina Elisabetta mi avevano portato un attimo a pazziare, come si suol dire. Allora, torniamo alle cose serie. Come detto, sono partito dalle tasse che racconta il Sole 24 Ore. Negli ultimi 10 anni in alcuni casi sono aumentate anche del 70-80%, in alcuni casi quasi fino al 100%. Torniamo alla questione dei conti. Sapete che sul 3% dello sforamento del rapporto deficit-PIL c'è un grande tema, grande dibattito in Italia. Ovviamente uno sforamento che non è consentito in base a quello che l'Europa ci obbliga a mantenere sui conti pubblici, e però tutto questo va a cozzare un po' con i soldi che servono per fare le cose promesse, prima tra tutte scongiurare l'aumento dell'IVA che incombe dal 1 ottobre. E allora, aumento IVA serve 1 miliardo in 15 giorni, così titola il Corriere della Sera, e siamo a pagina 5. Io ironicamente metto sempre su Twitter, nel mio profilo, Alino Milan, se vogliono lor signori, io giro sempre con 2 eurini in tasca, li metto a disposizione, di più sinceramente non me la sento. Comunque, l'aumento dell'IVA, Brunetta, presto il decreto, Renato Brunetta è strasicuro, racconta Mario Sensini sul Corriere, a giorni arriverà il decreto per bloccare l'aumento dell'IVA con relativa copertura, è una garanzia, succederà, dice il capogruppo del PDL alla Camera. C'è l'impegno di governo e della maggioranza a non far aumentare l'IVA a ottobre, aggiunge Brunetta. A sentire il vice ministro dell'economia Fassina, non basterebbero neanche l'anno prossimo per l'IVA i 2,4 miliardi che servono per IVA, IMU, missioni di pace da rifinanziare, cassa integrazione, esodati. Insomma, bisogna far spuntare i soldi, e questi soldi non basterebbero neanche l'anno prossimo, tanto che bisognerà fare una scelta anche lì: o il taglio del cuneo fiscale, che si ipotizza nell'ordine di 5-6 miliardi, o la sterilizzazione dell'IVA per tutto il 2014, che costerebbe 4 miliardi di minor gettito e che per lui sarebbe la soluzione preferibile. Insomma, servono soldi, servono da trovare, tanto che il giornale è sicuro, niente rincaro IVA, c'è l'asse PDL-PD, va bene, ma è facile dire non facciamo scattare l'aumento dell'IVA. Ci si chiede però dove si possono trovare i soldi. Ecco che Stefano Fassina, viceministro dell'economia, viene intervistato dal Messaggero a pagina 3 da Sonia Oranges e dice: non ci sono le risorse per tutto, meglio bloccare l'aumento dell'IVA e impegnarsi su cassa integrazione in deroga e esodati. Riaprirete la partita IMU? chiede il Messaggero. È un tema molto sensibile. No, risponde Fassina. Bisogna svolgere una valutazione complessiva. La mia opinione sull'IMU è nota, ma il punto resta che le misure in agenda impegnano una quantità di risorse di cui non disponiamo. E allora come se ne esce? C'è anche un pezzo di misure che da completare per garantire gli esodati. Se ne esce discutendo, poi scegliendo, mettendoci d'accordo sui principi che guideranno l'azione dell'esecutivo. A mio avviso devono essere due: l'equità, perché la sperequazione nella distribuzione del reddito pesa sui consumi, e poi il sostegno ai produttori. Meglio evitare l'aumento dell'IVA e investire sulle prestazioni sociali. Così Stefano Fassina. Sta di fatto che anche per il secolo XIX i conti sono tali per cui servono 4,5 miliardi da qui alla fine dell'anno per fare tutto ciò che è promesso. Anzi, il secolo XIX, a pagina 3, con Giovanni Tarquini, lo mette così: dall'IMU all'occupazione 10 miliardi di promesse, ma è impossibile fare tutto. E così il governo, che è nelle secche, deve preparare entro venerdì un difficile documento, il DEF. Rinviare l'aumento dell'IVA, finanziare la cassa integrazione delle missioni militari, trovare la copertura per la cancellazione della seconda rata IMU, il tutto rimanendo rigorosamente sotto il tetto del 3% del rapporto deficit-PIL, per di più con un'economia che con tutta probabilità arretrerà quest'anno ben più dell'1,3% finora previsto dal governo. Insomma, questo è il gioco da dove far spuntare i soldi. Attenzione, perché l'Europa ci guarda, e l'Europa ha mandato anche un messaggio molto importante, come racconta il quotidiano nazionale a pagina 5. Ieri il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn ha lanciato un messaggio cifrato a Roma dicendo: una nuova manovra dipenderà dalle decisioni dell'Italia. Come dire, se non fate le cose che dovete fare vi trovate costretti a fare una nuova manovra. Cioè l'Unione Europea scarica sull'Italia: se servirà una nuova manovra dipenderà solo da Roma. Far tornare i conti, però, come titolo al quotidiano nazionale, è un rebus. In tutto questo si punta anche al tema del lavoro e dello sgravio fiscale su famiglie e imprese. Certo, c'è questa settimana, come dire, che incombe con la vicenda politica, la vicenda Berlusconi, la vicenda possibile decadenza anche sia lui da senatore, possibile caduta del governo con le minacce politiche. Però sta di fatto che, come racconta il Corriere della Sera con Marco Galluzzo a pagina 6, meno tasse su lavoro e imprese è un obiettivo del governo Letta. Il governo prepara il negoziato. Ovviamente, scrive il Corriere, per il momento è tutto congelato. Ci sono da trovare e definire le coperture per evitare appunto aumento dell'IVA, dare corpo all'azzeramento dell'IMU. Ma se il governo passerà indenne i prossimi giorni, come Letta si augura, subito il Presidente del Consiglio ha intenzione di rivedere i rappresentanti di imprese e leader dei tre sindacati per definire alcuni punti centrali della nuova legge di stabilità. Obiettivo, in primo luogo, una busta paga più pesante di quanto è impossibile dirlo, ma nelle intenzioni dell'esecutivo questo quanto basta per lasciare di più denaro nelle tasche dei lavoratori e della famiglia, in modo da stimolare la domanda interna. Poi l'impegno è quello di intervenire sul cuneo fiscale o comunque alleggerire il costo del lavoro, un impegno programmatico di questo governo. Letta ne ha fatto un cardine del suo discorso di presentazione alle Camere. E poi un taglio del carico fiscale sul lavoro anche per le imprese, in modo da ottenere lo stesso effetto sulla programmazione delle aziende, alleggerendo situazioni di crisi. Questo è l'obiettivo. secondo il Messaggero, si è ancora più focalizzati nelle tredicesime. Cari italiani, state già pensando, per chi le ha, per chi è fortunato ad averle, alle tredicesime in arrivo? Beh, sappiate, racconta Giusi Franzese a pagina 3 del Messaggero, che il governo gioca appunto sulla carta tredicesime. L'ipotesi è di arrivare a un aumento di 100 euro nel 2014 per dipendenti e pensionati. Racconta il Messaggero, oltre all'IRAP e ai contributi INAIL, entrano anche le tredicesime nel menù delle misure che il governo ha intenzione di varare con la prossima legge di stabilità, in modo da dare una spinta alla ripresa in arrivo. Stiamo parlando però delle tredicesime del 2014, quindi io all'inizio avevo letto questo tredicesime, come dire, tra tre mesi, invece tra un anno e tre mesi. Peter Bescapè ha fatto dalla regia un ma va. Aveva già contato di avere quei 100 eurini più in tasca, forse, e invece no. Le tredicesime del 2014, come dire, quest'anno non ce n'è, anzi, care grazie che non ce ne chiedono ancora. In tutto questo, la situazione del lavoro, certificata dai dati Istat, soprattutto per i più giovani, gli under 35, è sempre più drammatica. L'Unità: i giovani non escono dalla crisi, 1 milione di disoccupati in più. Il titolo non dice molto, cioè quando si 1 milione di disoccupati in più bisognerebbe dire rispetto a quando. Comunque, nell'articolo di Giuseppe Caruso è spiegato: una generazione duramente colpita dalla crisi, la generazione in questione è quella degli under 35, e la prova è offerta dalle tabelle Istat riferite al secondo trimestre del 2013. Nello stesso periodo del 2010, ecco, quindi il raffronto è rispetto al 2010, le persone in quella fascia in attività erano 6,3 milioni di under 35 attivi nel 2010. Ora nel 2013 sono 5,3 milioni, 1 milione in meno in 3 anni. Questo per quel che riguarda i giovani, gli under 35. Insomma, questa fotografia, che è partita dalle tasse, è arrivata all'economia, è una fotografia, come dire, che uno va a sviluppare tutta nera, più o meno. In tutto questo che cosa c'è? La politica. Siamo alla settimana in cui si deciderà, mercoledì, il primo voto sulla decadenza Berlusconi. Il punto è sempre lì, siamo fermi sempre lì. Che succederà? Voteranno contro Berlusconi, ci sarà la decadenza, poi l'aula al Senato confermerà o meno, c'è il dibattito sul voto segreto o palese, temi fondamentali per risollevare l'Italia, e poi c'è la questione di che succederà. Il governo terrà il barometro o il termometro della crisi politica, dice che Berlusconi ha fatto un weekend più da colomba. Sarà perché ieri a pranzo ha visto Veronica Lario, non si sa, forse questo lo ha consigliato a essere un pochino più morbido, e dunque la crisi di governo pare allontanarsi, ma tra 2 ore chi lo sa, dopo il traffico magari è già cambiata la situazione, lo scopriremo. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, la politica è tutta lì a vedere che succederà. Intanto il giallo nel giallo nel giallo. C'è questo video messaggio di Berlusconi, fatto, montato, smontato, limato, rivisto, corretto. Pare di sì. Secondo il Giornale, il titolo di prima pagina, Berlusconi dice tutto, la verità in un video che non si è visto. Però domani Berlusconi è a Roma, ieri ha visto Veronica Lario, ha visto i figli, e domani a Roma, in attesa di mercoledì, potrebbe riapparire o in diretta o in un video. La mossa del Cavaliere, video messaggio su Forza Italia e Giustizia, anche Tommaso Labate a pagina 8 del Corriere assicura, è così. Berlusconi, per invece il retroscena di Repubblica, accelera su Forza Italia, a giorni il rilancio del vecchio marchio, ieri pranzo con Veronica. Mentre per Ugo Magri il retroscena sulla Stampa è un Berlusconi un pochino più ammorbidito sulla possibilità di fare di andare alla crisi di governo. Ugo Magri racconta: in prima pagina. Vuoi vedere che Letta ci ha indovinato? Mercoledì non scoppierà la crisi, giovedì neanche, venerdì nemmeno. Berlusconi sta per alzare bandiera bianca. Se la giunta delle elezioni deciderà di cacciarlo dal Parlamento, con un nobile discorso lui protesterà al mondo la propria innocenza, si dichiarerà vittima dei magistrati, ma per il bene supremo dell'Italia incasserà il ceffone senza mandare tutto all'aria. Così assicura Ugo Magri, ma guardate, le rassicurazioni vivono lo spazio di mezza giornata. Per il giornale Berlusconi prepara la sfida, un nuovo video TV. Sta di fatto che dall'altra parte invece nel Partito Democratico Renzi, che va per feste del PD, ieri ha detto questa frase che, anche se lui è accusato di essere uno di parlare per slogan, insomma sono buoni slogan, e questa certamente è già diventata il titolo dei giornali di oggi: se andiamo alle elezioni li asfaltiamo, così Renzi ha detto del Popolo della Libertà. Nuova legge elettorale per pensionare le larghe intese, così chiede Renzi. La legge elettorale, siamo alla 20ª settimana decisiva che si apre oggi per la riforma elettorale, questo lo ricordo, come si apre oggi la 20ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. Tra l'altro i saggi sono in conclave a Francavilla a Mare, in provincia di Chieti, 4 stelle Superior, l'hotel, sono stati anche contestati al loro arrivo. Comunque, se Renzi scalpita e dice li asfaltiamo, dall'altra parte Cuperlo, cioè il più accreditato candidato contro di lui alla segreteria del Partito Democratico, dice parleremo poi di chi è più giovane o fotogenico. Per il momento dobbiamo capire dove siamo adesso in Italia a parlare dei temi. Sta di fatto che asfaltarli o no, su Repubblica c'è un sondaggio proposto dal sociologo e politologo Ilvo Diamanti, dal titolo Il bel paese in bilico, prima pagina e poi pagina 2 e 3. Beh, secondo questo sondaggio fatto da Demos per Repubblica, non è che l'asfaltamento si vede. Secondo le previsioni degli italiani, in questo momento, dice Ilvo Diamanti, il PD è al 28%, mentre il PDL è al 26%. Renzi è certamente l'uomo più accreditato in poll per Palazzo Chigi, ma è un'Italia senza maggioranze. Dunque, almeno in questo sondaggio Demos, con il Movimento 5 Stelle che non scende sotto quota 20%, dunque PD 28, PDL 26, Movimento 5 Stelle 20 o poco più, è ancora un'Italia, secondo questo sondaggio, spaccata in tre, e dunque i segni di questa asfaltatura o asfaltamento, secondo questo sondaggio, non ci sono. Vabbè, c'erano tante altre cose da leggere, ma purtroppo il tempo vola e dunque sul Giglio c'è poco da leggere. Speriamo che si raddrizzi la barca in tutti i sensi in Italia, anche e soprattutto quella del Giglio. Per il momento rinviate per il maltempo le operazioni, ma comunque le seguiremo in diretta qui su Radio 24 con la nostra inviata Raffaella Calandra. Ma è il momento del premio, la carta costa, l'articolo più inutile scovato dai giornali, e ora siamo sul Corriere della Sera, che dedica mezza pagina ad Amanda Anziosissima Knox. Ve la ricordate Amanda Knox, colei che deve rispondere ancora dell'omicidio di Meredith Kercher, ma dagli Stati Uniti è là, rimane, e ci fa sapere in un'intervista al New York Post che il Corriere pubblica mezza pagina: non vengo in Italia perché in Italia è un circo la giustizia. Beh, magari non è neanche tutti torti per alcune cose. Siete più interessati al mio look, a come mi pettino in aula, che alla verità. La verità è che piango spesso, sono in analisi. Quando ero in aula, ogni singolo movimento che facevo, ogni gesto, ogni espressione facciale erano il centro dell'attenzione, distraevano dalla presentazione e dall'analisi delle prove. Una parte delle ragioni per non tornare sta nell'evitare questo circo. Sì, siamo sicurissimi, Anziosissima Knox. Amanda Knox non torna in Italia perché ha paura che tutti ci concentriamo sulle sue faccine. Deve essere proprio questo il motivo principale per cui non torna in Italia per l'ultimo grado di giudizio, anzi l'appello. Deve essere proprio questo. Va bene, chiudiamo con la Gazzetta. È il nostro anno, mio e del Napoli, così giura in un'intervista esclusiva Hamsik. Ma ricordate, amici del Corriere, per chiudere su Amanda Knox, che la carta Costa. Ci troviamo dopo il giornale radio delle 8, parliamo di finanziamento pubblico ai partiti.